Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. All'inizio dell'era dei fossili, se un geologo impegnato in un'esplorazione petrolifera trovava, anziché un giacimento di petrolio, un giacimento di metano, era abbastanza probabile che fosse licenziato. All'epoca infatti non esistevano turbine a gas, per esempio, ma soprattutto non esistevano gasdotti o infrastrutture in grado di consentire il trasporto del gas per centinaia o addirittura migliaia di chilometri, mentre il petrolio, insomma, bastava metterlo in una botte. Da questo punto di vista, l'idrogeno oggi si trova in una situazione non molto diversa da quella del metano a inizio Novecento, cosa che ci porta al classico dilemma dell'uovo e della gallina: senza infrastruttura di distribuzione niente mobilità all'idrogeno, e senza mobilità all'idrogeno niente infrastruttura di distribuzione. Per uscirne perciò bisogna che la diffusione dei veicoli a idrogeno abbia uno sviluppo parallelo a quello dell'infrastruttura, ed è esattamente questo che hanno in mente all'Associazione Italiana per l'Idrogeno e le Celle a Combustibile, H2IT, incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico di redare un piano di sviluppo di una prima infrastruttura nazionale di distribuzione dell'idrogeno, di cui parliamo con Angelo Moreno, presidente di H2IT, che è tornato a trovarci. Buonasera Moreno. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, senta, a lei la parola. Come avete immaginato lo sviluppo di questo primo nucleo di un'infrastruttura a idrogeno per l'Italia? Sì, intanto l'ha già detto lei, cioè uno sviluppo in parallelo. Da un lato dobbiamo promuovere l'acquisto di automezzi e di autoveicoli a idrogeno e cella combustibile, dall'altro lato dobbiamo promuovere invece la realizzazione delle strutture di ricarica, di rifornimento dell'idrogeno. E ovviamente diciamo, dobbiamo distinguere le due cose, perché in un caso, quello delle infrastrutture, è molto probabile che almeno le prime verranno realizzate con fondi pubblici, mentre le automobili saranno magari con fondi privati o con fondi europei. Detto questo, è chiaro che non possiamo pensare all'acquisto di automobili da parte dei singoli privati. Quindi il primo anello di sviluppo, che sarà per i prossimi 10 anni, da qui al 2025, prevede soprattutto lo sviluppo di sistemi di rifornimento idrogeno per flotte di mezzi pubblici, sia autobus ma anche eventualmente taxi, ma anche eventualmente car sharing, e di altri tipi di flotte, per esempio flotte di veicoli per la distribuzione della posta, flotte di veicoli per la distribuzione delle merci, eccetera. Quindi i primi nuclei saranno distributori di idrogeno localizzati diciamo nella periferia della città, per rifornire queste flotte, dove eventualmente anche eventuali veicoli privati possano anche avere accesso. Ecco, questo naturalmente perché questi veicoli, che sono più costosi, si ammortizzano però se vengono usati tantissimo, perché poi consumano poca energia, hanno poca manutenzione, quindi nelle flotte questi vantaggi sono più evidenti. Sì, ed è anche ovvio il richiamo alle flotte, perché realizzare un sistema, un distributore di idrogeno, senza sapere prima quante automobili si fanno a rifornire, potrebbe essere un azzardo. Invece fare un distributore di idrogeno per una flotta già determinata, certo, in cui so già qual è l'esigenza, diventa tutto molto più facile. Ecco, a quanti distributori pensate di arrivare in Italia? Voi avete comunque un piano di sviluppo, sì, avete un numero in mente per cominciare? Noi possiamo anche copiare dagli altri. Fortunatamente ci sono parecchie nazioni europee, tipo Germania, Francia, Inghilterra, questo problema l'hanno già affrontato. Più o meno i criteri sono gli stessi. Quali sono? Quelli di realizzare alcuni distributori di idrogeno lungo la rete autostradale. In Italia ci sono circa 8.000 km di autostrade. Se pensiamo, per esempio, giusto per dare degli ordini di grandezza, a un distributore di idrogeno di 200 km, stiamo parlando di 40-50 distributori di idrogeno lungo le autostrade. Poi, se pensiamo alle grandi città italiane, quindi Roma, Napoli, Milano, Genova, Torino, saranno una decina. Bene, su queste decine di città, dove il traffico ovviamente è più intenso e dove poi circolano anche le flotte, appunto, sono queste città più che le autostrade, no? Sì, quindi diciamo queste grandi città, in quelle città si può pensare alla realizzazione di altri 3, 4, 5 distributori di idrogeno. Quindi se sommiamo, quindi sempre per dare dei numeri di riferimento, stiamo parlando di 40-50 stazioni di servizio lungo le autostrade, e poi di 40-50, perché più o meno le grandi città italiane sono una decina, Ovviamente poi nessuno dice che possiamo farla anche per le altre, però se io devo pensare... Per partire questo potrebbe essere... Pensando a un centinaio, okay, diciamo, di stazioni di servizio entro il 2025. Entro il 2025. Senta, parliamo un po' di costi. Cosa costa una stazione di servizio, un distributore dell'idrogeno? Questo anche per capire l'entità dell'investimento di cui sì, stiamo parlando. È chiaro che il costo della stazione di servizio dipende pure dal servizio. Che certo, fa, certo. Quante automobili, quanto idrogeno, eccetera. A che pressione, se anche pressione, fornito ad alta comunque, pressione. Per dare un riferimento, quindi un ordine, sì, di grandezza, possiamo parlare di un costo diciamo medio di 2 milioni, ma potremmo dire diciamo da un minimo di 1 milione a un massimo di 3 milioni. Di 3, a seconda del tipo di... Sempre come ordine di grandezza, sì, ovviamente. Sì, sì, sì, sì, sì. Ecco, quindi... Quindi stiamo parlando di un investimento che potrebbe andare dai 200 ai 300 milioni. Dai 200 ai 300. 10 anni, che non mi sembra un investimento esagerato. No, 20-30 milioni all'anno per costruire questo primo nucleo. Va bene, sarebbero ancora tantissimi temi di cui potremmo parlare, la concorrenza con l'auto elettrica, se sarà tale oppure no, ma ci dobbiamo fermare. Grazie Angelo Moreno. Grazie a lei e alla prossima. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.